2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 17 ottobre 2009. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024@radio24.it. Potete scriverci una email o potete anche riascoltare la nostra puntata online. Come sempre vi ricordo che è disponibile il servizio podcast, il comodissimo servizio podcast. Potete abbonarvi gratuitamente, quindi sottoscrivere questo servizio che vi dà la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Molti ascoltatori ci scrivono, anzi continuate a scriverci per raccontarci le modalità con cui ci riascoltate. Ci sono persone che hanno magari in automobile la possibilità di inserire una chiavetta USB e quindi ci riascoltano con l'autoradio in automobile. Alcuni fanno delle vere e proprie compilation. Proprio questa settimana ci ha scritto un nostro ascoltatore che ci dice che si fa delle lunghe compilation su CD. Insomma, ci sono tante modalità per riascoltarci, magari anche semplicemente sul proprio computer. A proposito di computer, oggi parleremo del mercato dei PC. Ci sono alcune novità interessanti, forse per alcuni anche alcune sorprese. Alcune notizie della settimana. In questi giorni ha fatto il giro del mondo la notizia che il governo finlandese ha deciso di estendere il servizio universale ad internet in banda larga. Solitamente il servizio universale riguarda l'acqua, il telefono, l'energia elettrica. Ad Helsinki invece, al Ministero delle Comunicazioni, dicono che ormai internet è come questi servizi, quindi acqua, corrente elettrica, eccetera eccetera, insomma una cosa senza la quale non si può vivere in una moderna società. E allora dal prossimo luglio, quindi luglio 2010, per i finlandesi internet sarà un diritto. Verrà garantita una connessione minima di 1 megabit al secondo, che verrà estesa a 100 megabit a partire dal 2015, quindi un obiettivo molto ambizioso. In molti hanno scritto o hanno detto che la Finlandia, beh, anche perché loro stessi finlandesi lo hanno annunciato così, hanno detto e scritto che la prima al mondo la Finlandia a prendere questa decisione. In realtà la Svizzera, con 3 anni di anticipo, aveva esteso il concetto di servizio universale alla banda larga nel 2006 e dallo scorso anno tutti gli abitanti dei cantoni possono chiedere e anche ottenere da Swisscom un collegamento ad internet, anche se in questo caso parliamo di un collegamento a 600k, quindi una banda non larghissima, ma comunque questo è un diritto anche se si vive in una zona sperduta sulle montagne. In Svizzera, secondo una ricerca che abbiamo fatto, circa il 15% della popolazione non è ancora connesso, quindi si trova in digital divide, mentre in Finlandia siamo, pensate, solo ad una piccola minoranza del 4 o 5% che ancora non è collegato ad internet. Quindi praticamente tutti i finlandesi hanno un computer e quel computer è collegato ad internet. In questi casi naturalmente parliamo di paesi con una popolazione che supera di poco i 5 milioni per la Finlandia o di quasi 8 milioni per la Svizzera, quindi parliamo di paesi che possono essere paragonati ad una regione, quindi ad esempio la Finlandia può essere paragonata a livello di popolazione, naturalmente non di estensione, al Lazio, o la Svizzera alla Lombardia. Quindi è chiaro che le politiche per la diffusione della banda larga sono molto più complesse in paesi come l'Italia, la Francia, la Germania, insomma quelli con i quali ci confrontiamo normalmente, ma è altrettanto evidente che il nostro paese ha seri problemi infrastrutturali e ancora manca purtroppo un piano nazionale per la diffusione di internet a banda larga e anche i relativi investimenti. Ci sono stati e ci sono ogni tanto degli annunci, ma purtroppo gli investimenti non arrivano. C'è poi anche un problema di cultura digitale, quindi non solo un divario digitale perché non c'è internet. Dicevo un problema di cultura perché meno del 50% della popolazione ha in qualche modo contatti con internet in Italia, cioè anche dove c'è la DSL la penetrazione di PC connessi alla rete è ancora bassa rispetto alla media europea. L'unica nota positiva in questo scenario è la digitalizzazione della pubblica amministrazione, che procede, quindi questa è una buona notizia, e che potrebbe contribuire ad affermare anche nel nostro paese questo principio, cioè che internet sia un diritto, come osserva Guido Scorza, che è un avvocato esperto della rete internet. Potrebbe, e io direi dovrebbe, almeno da un punto di vista costituzionale, se è vero come è vero che l'articolo 3 della Costituzione dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, beh, questo significa allora anche che tutti i cittadini devono poter accedere ai servizi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione con analoghe modalità, e dunque se questi servizi sono posti a disposizione attraverso piattaforme web, anche attraverso internet. Per cui da questo punto di vista parlare di PA digitale dovrebbe, più che potrebbe, avere per presupposto l'affermazione di un principio secondo il quale tutti i cittadini hanno diritto ad eguali risorse di connettività, almeno in misura minima. E questa è sicuramente una considerazione interessante. Certo è che la beffa sarebbe se venisse affermato il diritto in mancanza della rete, quindi prima è bene fare gli investimenti e lanciare un piano nazionale per la diffusione di internet a banda larga, e anche stabilire quanti soldi piuttosto approvare i soldi che sono già stati impegnati, o forse anche aumentare queste risorse, che se sono confrontate con altre infrastrutture, strade o ponti, sono effettivamente risorse anche piuttosto esigue. Quindi non si tratta di investimenti incredibili, ma sicuramente nel futuro questi investimenti dovranno essere aumentati, anche perché esiste una correlazione, ma di questo abbiamo parlato più volte e molto spesso gli esperti della rete si confrontano su questo: esiste una correlazione tra lo sviluppo economico, tra gli investimenti fatti in banda larga e il prodotto interno lordo. L'OCSE dice ad esempio che per un euro investito in infrastrutture in banda larga si vede un risultato di 4 euro in termini di prodotto interno lordo. Comunque, visto come procedono le cose, direi che sia abbastanza sicuro che nel 2015 noi non avremo connessione ad internet di almeno 100 megabits al secondo per tutti i cittadini, come forse accadrà in Finlandia. Dico forse perché poi bisognerà vedere poi l'impegno concreto, perché questo significa portare fibra ottica in tutto il paese. Una cosa interessante di cui dovremmo occuparci nelle prossime settimane sono gli investimenti e gli impegni che alcune regioni, purtroppo poche in Italia, stanno facendo. Quindi in modo indipendente, potremmo dire in modo federale, stanno impegnandosi per portare banda larga in giro in tutti i paesi, anche nei piccoli comuni, ma questo riguarda appunto solo alcune regioni. Di questo sicuramente parleremo e ci occuperemo. C'è un'altra notizia della settimana da mettere nel capitolo impossibile o quasi qua da noi. Riguarda Amazon, che ha annunciato di aver lanciato in 7 città americane un servizio di consegna in giornata. Il servizio si chiama Local Express Delivery e offrirà consegne in giornata a New York, Philadelphia, Boston, Baltimora, Las Vegas, Seattle e Washington. E poi questo servizio verrà esteso anche ad altre città entro breve. Si ordina entro una certa ora, in molti casi le 10 del mattino. Il costo della consegna è mediamente di circa $17 più $2 per libra, o un fisso di $2 o $3 per ogni oggetto acquistato. Comunque su internet c'è una tabella che semplifica il costo delle consegne. Sicuramente non è un servizio a basso costo, ma è sicuramente un servizio comodo per chi magari all'ultimo minuto vuole acquistare un prodotto. Amazon è famosa per i libri, ma naturalmente non solo per i libri. La settimana scorsa, a proposito di Amazon, l'azienda americana ha annunciato che a partire da lunedì, quindi dal 19 ottobre, in tutto il mondo si potrà acquistare il lettore digitale di ebook, il Kindle, famoso Kindle. Finora questo è un prodotto e anche i servizi collegati erano disponibili solo negli Stati Uniti. Pochi giorni fa, potremmo dire quasi in risposta a questa mossa di Amazon, Google ha annunciato l'intenzione di lanciare il prossimo anno un servizio online di libri elettronici con circa 500.000 titoli. un piano che alcuni vedono in concorrenza con Amazon, con la differenza che i libri potranno essere letti con qualsiasi lettore, con uno smartphone o anche con un computer, mentre quelli pensati per il Kindle sono legati a questo lettore di ebook. Il servizio si chiamerà Google Editions e si inserisce in una strategia più ampia nel settore dei libri che è iniziata esattamente 5 anni fa, quando alla Fiera del Libro di Francoforte venne presentato il servizio Google Books, con il quale ancora oggi l'azienda americana sta scannerizzando milioni di titoli per metterli a disposizione in rete. L'edizione di quest'anno della Fiera del Libro tedesca termina domani e uno dei temi di cui si è discusso è proprio Google Books. Se ne discute spesso, c'è un grande dibattito, sapete che c'è un accordo con gli editori americani, si attende un giudizio di una corte americana per il 9 novembre e c'è soprattutto un forte disaccordo degli editori europei nei confronti di questa grande, impressionante operazione. Si parla di 10 milioni di libri già scannerizzati da Google. Sentiamo il parere di Federico Motta, che è il presidente della Federazione degli Editori Europei. Secondo noi il progetto Google mette a serio rischio l'editoria, in questo caso europea, che ha delle particolari valenze, ma soprattutto è un attacco al diritto d'autore. E noi sappiamo che il diritto d'autore è il fondamento di tutta l'attività editoriale ed è anche la base su cui si è creata non solo l'editoria moderna, ma su cui gli autori hanno potuto alimentare la propria attività, la propria creatività. E quindi noi siamo molto preoccupati di questo. Gli strumenti tecnologici vanno bene, ma vanno governati secondo noi in modo diverso. Senta, c'è una differente visione delle cose però tra l'Europa e gli Stati Uniti a proposito di editori. C'è una differente visione perché c'è anche una profonda differenza legislativa. Da noi esistono leggi, cioè sul diritto d'autore, ed esistono leggi nazionali che regolamentano sia anche gli aspetti commerciali. In America invece il discorso è completamente diverso, il discorso è un discorso di tipo giurisprudenziale, quindi evidentemente un accordo tra le parti ha un valore diverso rispetto a quanto può avere in Europa. E questo è il parere degli editori europei. Come dicevo, c'è attesa per questo giudizio di una corte americana il 9 novembre su questo accordo tra Google e gli editori americani. Semplificando molto, visto che la questione è molto complessa, potremmo dire che Google vorrebbe fare, o meglio vuole fare, una grande biblioteca online, partire da qua per poi vendere anche libri. Ma un conto è una biblioteca fisica, un altro è uno strumento accessibile a tutti, vista anche la forza di Google su internet, che pone dei seri problemi di monopolio, e su questo alcune agenzie antitrust stanno indagando. Di motore di ricerca, visto che di fatto Google principalmente guadagna soldi dal motore di ricerca, dicevo, di motore di ricerca parleremo la prossima settimana, e se vi interessa il tema vi segnalo anche un appuntamento al Festival della Scienza di Genova il 29 ottobre alle 17.30 al Teatro della Tosse, un evento organizzato dall'Istituto di Informatica e Telematica del CNR, un appuntamento e un evento per capirci qualcosa di più su questi strumenti che ormai sono diventati indispensabili e stanno trasformando la nostra vita. Pensate se non esistessero i motori di ricerca, alcuni potrebbero dire, pensate se non esistesse Google, e pensate a che cosa potrebbe diventare Google, visto che sta continuando a raccogliere milioni e miliardi di informazioni in tutto il mondo, e basta avere la posta elettronica di Google o anche solo utilizzare il motore di ricerca e quelle sono informazioni che in maniera anonima o non anonima vengono fornite ai grandi centri di analisi di Google. Una notizia prima di fermarci per una breve pausa riguarda la crescita del traffico su internet e anche il cambiamento del traffico su internet. Arbor Network, una società che si occupa di soluzioni per gli internet service provider, ha realizzato uno studio durato un paio di anni nel quale si capisce come si è trasformato nel corso degli anni il traffico della rete internet. Una cosa interessante che appare è che il traffico peer-to-peer sta calando anno dopo anno ed oggi pesa per il 18% 1% sul traffico totale. Il traffico peer-to-peer si è di fatto dimezzato dal 2007, quando pesava, pensate, per il 40%. Google è la principale fonte di traffico mondiale, quindi come singola entità pesa per il 6%, mentre le applicazioni che maggiormente consumano banda sono quelle per vedere video come YouTube, che consumano in totale il 20% del traffico, e queste stanno crescendo mese dopo mese. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci: 2024@radio24.it. Un'altra notizia della settimana riguarda il mercato dei PC, dei computer in leggera ripresa nel terzo trimestre dell'anno e che si prepara all'arrivo la prossima settimana di Windows 7. C'è molta attesa per l'arrivo del nuovo sistema operativo della Microsoft, visti i problemi che sono stati riscontrati in tutto il mondo con Vista. Vi ricordo che anche noi ci occuperemo dell'arrivo di questo nuovo prodotto. A proposito del mercato dei computer, c'è un dato interessante di cui molti operatori del settore stanno parlando in questi giorni. Continua la forte crescita di Acer, che è diventato ufficialmente il secondo produttore mondiale di computer dopo HP, che rimane al primo posto con una quota attorno al 20%. La taiwanese Acer, come dicono gli americani Acer, per la prima volta sorpassa Dell, e questa è una notizia molto commentata soprattutto negli Stati Uniti. Un'azienda storica come Dell, che negli Stati Uniti in modo particolare sta perdendo quote di mercato. Giusto per dare un'occhiata ai dati, secondo le stime di Gartner, HP ha una quota nel terzo trimestre del 19,9%, quindi attorno al 20% del mercato in tutto il mondo. Acer sale al numero 2 con il 15,4%, Dell scende al terzo posto con il 12,8%, e Dell è l'unica azienda tra le più importanti, tra le principali, a perdere quote di mercato. Poi c'è la cinese Lenovo con 8,5%, Toshiba giapponese con 5% e tutti gli altri, quindi con quote inferiori al 5%, hanno il 38% del mercato. Quindi sicuramente il mercato è ancora frammentato. E proprio nel giorno in cui Gartner e anche IDC, che è un'altra importante società di analisi del mercato, pubblicavano questi dati che descrivono l'andamento del mercato, Acer annunciava l'arrivo di nuovi prodotti touchscreen nel segmento notebook, e di touchscreen parleremo più tardi. Ma quello che è più importante, è stato annunciato un nuovo smartphone che si chiama Liquid con sistema operativo Android, e anche un netbook, il primo sul mercato con il sistema operativo di Google, quindi sempre Android. Questo prodotto ha il cosiddetto dual boot, cioè la possibilità di scegliere con quale sistema operativo partire, Android o Windows 7. La cosa può sembrare di poco conto, ma in realtà è un segnale interessante per un mercato dominato, come sappiamo, dalla Microsoft e da Windows. Alcuni operatori dicono anche che sia un segnale che Acer sta lanciando alla Microsoft, ma lasciamo queste questioni agli addetti ai lavori. Quello che è interessante è per il consumatore finale che arriva un nuovo prodotto sul mercato, o meglio si sta espandendo questo nuovo prodotto, cioè Android. Ma qual è il motivo ufficiale di questa scelta? Ad una settimana dall'arrivo del nuovo Windows, uno dei più grandi produttori di PC al mondo annuncia un piccolo computer portatile che monta anche Android. Allora, questo che cosa vuol dire? Lo abbiamo chiesto a Gianfranco Lanci, che è presidente e amministratore delegato del gruppo Acer, che abbiamo avuto il privilegio di incontrare questa settimana. No, il motivo secondo me è molto molto semplice. Pensiamo che Windows 7 è ancora meglio di... è sicuramente un'eccellente soluzione quando uno pensa al productivity, quindi tutte le applicazioni che si ritrovano sotto Windows. Se uno pensa al web, internet experience, Android oggi offre la possibilità di fare il boot in pochi secondi, di spegnerlo anche in pochi secondi, cosa che ancora Windows 7 è migliorato molto rispetto a Vista, ma ancora non siamo a questi livelli. E anche secondo noi, se uno guarda il capacità di connessione di Android, è molto più facile come gestione che non Windows 7. La nostra idea è che se un utente, ed è il motivo per cui abbiamo il dual boot, sia Android che Windows 7, se un utente ha necessità soltanto di utilizzare la rete, di andare su internet, di navigare su internet, messaggi eccetera, può tranquillamente partire con Android, fare tutto quello che deve fare, quindi accende e spegne il computer così come accende e spegne un telefono oggi più o meno, con la stessa velocità. Se l'utente invece deve fare altre cose, tipiche office environment, piuttosto che manipolare foto o altre soluzioni che sono tipiche di Windows environment, ha Windows a disposizione e può anche fare le cose che necessita fare sotto Windows. Senta, qual è il suo parere di Windows 7? Penso che Windows 7 sia un grosso passo avanti rispetto ai sistemi operativi che abbiamo visto nel passato, nel senso che sia come velocità che come interfaccia utente, molto più intuitivo e facile da usare. L'introduzione del touch consentirà anche lì, da un punto di vista di intuitività e di easy of use, è un altro eccezionale passo avanti. L'altra cosa importante, secondo me, di Windows 7 è per la prima volta l'introduzione di un nuovo sistema operativo non richiede maggiori risorse all'hardware. Ma probabilmente oggi Windows 7 può girare anche solo con 2 o 3 gigabyte di memoria, cosa che non era possibile con Windows Vista, ce ne volevano almeno 4, se no la macchina era molto lenta. Senta, c'è chi dice che Windows 7 potrà dare una spinta al mercato dei PC. Che cosa ne pensa? Io penso che sicuramente darà una spinta da un punto di vista di replacement, nel senso che chi sta pensando di sostituire il PC, ormai la vita media di un PC si sta attestando intorno ai 3 anni e sta comunque continuando a scendere, semplicemente perché i PC costano sempre di meno e continuano ad esserci innovazioni tecnologiche, quindi migliori soluzioni per l'utente. Penso che Windows 7, sicuramente Windows 7 potrà essere un acceleratore in questo senso, nel senso che vedendolo disponibile, vedendo le cose che uno può fare, può spingere in effetti l'utente ad accelerare la sostituzione dell'installato. Tutti parlano ancora della crisi, qual è il suo parere e la sua previsione per i prossimi mesi? Quello che vediamo, almeno per quanto riguarda i consumi, sicuramente pian piano ci avviciniamo alla fine del tunnel. Direi che non siamo ancora fuori, ma incominciamo a vedere tutta una serie di lati di segnali positivi che prima non si vedevano. Lei però dice che c'è una correlazione tra il prodotto interno lordo dei paesi e la vendita dei PC, del mercato dei PC. Ecco, a proposito del mercato vostro, quali sono le vostre previsioni? No, a proposito del mercato c'è sicuramente una correlazione, lo si vede durante gli anni, che crescendo GDP cresce il mercato, diminuendo GDP diminuisce il mercato. Quest'anno, questa volta, durante questa crisi, l'impatto sul mercato dei PC è stato molto meno pesante che non nel 2000-2002, la crisi passata. Secondo me semplicemente perché i PC oggi costano molto meno di quanto non costassero da un punto di vista di living standard, che non di quanto non costassero nel 2000. Quello che stiamo vedendo è che mobile ha sempre continuato a crescere, nel senso che continua a crescere, quest'anno continuerà a crescere probabilmente nell'ordine del 15%, un altro anno torneremo a vedere crescite del 25%. I desktop, che sono quelli che hanno sofferto molto, perché invece erano almeno 15-20% di crescita negativa, quello che ci aspettiamo è che probabilmente tra il quarto trimestre e l'inizio dell'anno prossimo si riportino a zero crescita o una piccola crescita, ma questo aiuterà comunque l'intera industria a vedere una crescita, a rivedere una crescita a 2 digit a partire dal prossimo anno. Senta, a proposito di crescita, voi avete annunciato obiettivi molto importanti per i prossimi anni, in modo particolare nel mercato degli smartphone. Ce li riassume questi obiettivi? L'obiettivo è, penso che sia, il nostro obiettivo è quello di diventare uno dei maggiori player nel mondo mobile, intendendo per mobile quello che noi definiamo one-end piuttosto che two-end devices. One-end sono gli smartphone, two-end sono i notebook e i netbook. Nei notebook e netbook abbiamo già il 20% di market share worldwide, quindi siamo il numero 2, siamo sicuramente un player significativo. Sugli smartphone, che penso che sia l'altro segmento con il maggior potenziale di crescita, parlando di mobility, Il nostro obiettivo è quello di vedere come fare a raggiungere penetrazione nell'ordine di due digit entro i prossimi 3-4 anni. E quando si parla di una crescita double digit, quindi due digit significa due numeri e quindi una crescita superiore al 10%, obiettivo sicuramente ambizioso in un mercato estremamente competitivo. Riprendiamo questa puntata di 2024, vi ricordo che il nostro programma va in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure ci trovate con estrema facilità online, c'è anche un servizio podcast, quindi vi diamo la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Se usate un sistema per la gestione del podcast, come ad esempio iTunes, ma ne esistono altri, avete la possibilità anche in maniera automatica di aggiornare, quindi di archiviare le nostre puntate, una cosa che molti nostri ascoltatori fanno con grande piacere. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Tra poco continueremo a parlare con Gianfranco Lancio, amministratore delegato di Acer Group, 6.000 dipendenti in giro per il mondo che sta crescendo con quote di mercato sempre maggiori anno dopo anno. Abbiamo però due notizie interessanti per chi utilizza in modo particolare sistemi Microsoft, visto che prima abbiamo parlato di sistemi operativi. Microsoft ha rilasciato in settimana una serie di importanti aggiornamenti di sicurezza. Si tratta del più grande pacchetto di sicurezza della storia dell'azienda. Se avete un sistema Windows e non avete l'aggiornamento automatico, beh, attivatelo, oppure è bene fare un aggiornamento manuale al più presto per mettere al sicuro il vostro sistema. Come diciamo spesso quando parliamo di sicurezza informatica, la prima regola è avere sistemi aggiornati, quindi non solo il sistema operativo ma anche i programmi aggiornati. Anche la Apple sta lavorando ad alcuni problemi che riguardano macOS. L'azienda californiana ha ammesso in settimana che in alcuni casi rari, così dicono in California, può esserci una perdita di dati. Alcuni utenti hanno detto, appunto, hanno detto di aver perso tutti i loro dati, quindi c'è un po' di dibattito in rete. Abbiamo parlato del mercato dei computer, un mercato che ci dà alcuni segnali anche dell'andamento dell'economia, ma ho fatto un'ultima domanda a Gianfranco Lanci, che ricordo è presidente e amministratore delegato del gruppo Acer, parlando di commodity, visto che Lanci fa spesso riferimento al computer che è diventato oramai un prodotto che si vende anche al supermercato, nelle grandi catene in tutto il mondo. Ecco, il fatto che il computer sia diventato una commodity e quindi molto spesso che la gente lo acquisti per impulso, sulla base di un'emozione e non sulla base di una conoscenza tecnica avanzata, può essere considerata anche una sconfitta per l'industria dei PC? Il fatto che il PC sia una commodity non è sicuramente una sconfitta per l'industria, nel senso che il PC sia una commodity e che sia diventato assolutamente normale avercene non uno in casa, ma più di uno, che sia diventato ormai uno strumento personale, anziché un PC per casa, ormai stiamo guardando a un PC per persona, tra smartphone, notebook, netbook, eccetera. Credo che sia la naturale evoluzione di questa industria, nel senso che internet è diventata parte della nostra vita. Se uno vuole essere collegato e connesso non ha più altra alternativa. C'è un rischio, e questo sicuramente è vero, e purtroppo lì dovremmo lavorarci tutti, che è quello di rendere l'idea agli utenti chiare piuttosto che confuse. E oggi in effetti in molti casi invece c'è molta confusione. Cioè, penso che per l'utente oggi sia abbastanza difficile comprendere, ma dobbiamo fare uno sforzo noi e il canale insieme con noi, cioè i punti vendita insieme con noi, a provare a posizionare questi prodotti non più a gigahertz e gigabyte, perché tutti parlano solo di gigahertz e gigabyte senza rendersi conto che ormai gigahertz e gigabyte non hanno quasi più nessun significato, ma invece guardandoli da un punto di vista di reale utilizzo e di che cosa l'utente si aspetta di fare con un PC. Lì dovremmo lavorarci, perché lì c'è ancora molta confusione. E questa era la voce di Gianfranco Lanci, che è presidente e amministratore delegato del gruppo Acer. potremmo definirla una rarità, visto che sono in generale pochi i manager di questo livello a capo di aziende del settore ICT. Mi viene in mente Vittorio Colao a capo di Vodafone, ma sono ben pochi appunto i manager italiani a questo livello, ma considerando anche quanto gli orientali, i cinesi, i coreani o i giapponesi, quanto siano gelosi delle posizioni al vertice delle loro aziende. Un po' in tutto il mondo gli orientali mandano dalla patria un manager alla guida delle divisioni locali per avere un controllo su tutto, quindi addirittura vedere un manager italiano a capo di una divisione cioè di un'azienda, di un gruppo mondiale, è sicuramente una buona notizia per il nostro paese, anche per avere un interlocutore che normalmente invece abbiamo in altre lingue. Adesso parliamo della tecnologia touch. Per quale motivo? Beh, perché oramai non se ne parla solo ed esclusivamente nel mondo degli smartphone, perché in settimana sono stati annunciati anche nuovi prodotti nel settore dei PC e dei netbook in modo particolare. Saluto Luca Figini, che realizza ogni mese una rivista, tra poco arriverà il nuovo numero, una rivista che si intitola proprio Netbook. Benvenuto a 2024. Grazie. Stanno arrivando già da un po' di tempo, abbiamo visto comunque nelle ultime settimane, soprattutto vediamo prodotti portatili, quindi con questi computer portatili piccoli, economici. Ricordiamo che questi sono computer che costano 300-400 euro, grosso modo siamo in quella fascia di prezzo, dicevo, con il touchscreen, quindi che non hanno quasi bisogno del mouse, è così? Assolutamente. Beh, attenzione, il touchscreen è un'aggiunta al mouse e alla tastiera. Non è un sostituto. Purtroppo ancora no, ma almeno è un passaggio generazionale quello che sta avvenendo, nel senso che noi siamo cresciuti con strumenti tutto sommato rudimentali di interazione col PC, che mouse e tastiera, quindi facciamo fatica ad abbandonare questo tipo di approccio all'interfaccia. Già se si dà in mano a un bambino un aggeggio con touchscreen cambia radicalmente il modo di interagire, perché è più naturale premere quello che si vede a video. Quindi è un'aggiunta in questo senso, almeno per quello che è la nostra generazione. Senti, chi ha provato qualche anno fa i tablet PC, che erano in qualche modo touch, con un pennino si utilizzava appunto questo computer al posto del mouse, forse è rimasto un po' scontento. Oggi le tecnologie touch, che sono mutuate immagino dal mondo della telefonia mobile, perché lì si sono imposte, sono molto più facili da utilizzare? Cioè, com'è l'uso, visto che tu provi tutti i mesi molti computer portatili? Purtroppo bisogna aspettare Windows 7 per capire in realtà come funzionerà realmente il task. Però c'è una settimana. Una settimana, sì, assolutamente. Ancora poco da attendere. Il discorso è che sì, i tablet PC hanno avuto una storia un po' sfortunata, nel senso che erano un po' degli ibridi, mancavano tecnologie reali, che erano molto costosi, non c'erano delle piattaforme adatte per supportarli. E comunque il sistema operativo mancava, perché tutto quello che poi rende unico il touchscreen è l'interfaccia è carica del sistema operativo. Si possono creare delle interfacce aggiuntive che si appoggiano a quella di Windows, di Apple, di Linux, eccetera, ma che la fa da padrone è il sistema operativo. Quindi mi sembra di capire che la tecnologia dello schermo, che permette di, poi magari parliamo anche delle tecnologie che sono a disposizione, la tecnologia c'è, è matura, ma molto dipende da come il sistema operativo ti fa interagire con la macchina. Esattamente. Adesso costano poco, ci sono in vari formati, per i netbook, per i notebook, per i cellulari, c'è un'ampia scelta di modelli e di dimensioni di display e di tecnologia, assolutamente, migliori, peggiori, poi dipende dal tipo di utilizzo. Quello che però serve è un supporto nativo per il sistema operativo, comunque per il software. Ok. Quindi tu citi Windows 7, immagino per un motivo principale, cioè che la maggior parte anche dei netbook o comunque dei notebook ha come sistema operativo Windows 7 o comunque Windows in generale. Sì, assolutamente, ma soprattutto perché Windows 7 nasce nell'epoca del touchscreen, cioè nasce nell'epoca post iPhone, nel momento in cui tutti si aspettano che il nuovo prodotto sia toccabile con le dita. E questo è un vantaggio per Windows 7, perché dice, vabbè, attenzione, adesso riusciamo a portare il touchscreen anche nel mondo dei computer. Senti, oggi un prodotto di questo genere che è touchscreen, quanto costa in più rispetto ad un prodotto normale? E poi ci sono molti prodotti sul mercato o sono pochi quelli che troviamo? Allora, i prodotti sul mercato si contano sulle dita di una mano, nel senso che sono ancora pochi. e tutti i produttori sono in attesa di Windows 7 per poterli presentare, perché nessuno ha scelto di affidarsi a Windows XP. Quindi la settimana prossima si vedranno 5-6 prodotti all'inizio, non credo, non di più. Costeranno molto di più rispetto a un prodotto normale oppure no? Costeranno un 30% in più, più o meno, sui 100-150 euro in più, anche se volendo qualunque dispositivo diventa touchscreen, chiaramente con cacciavite e un po' di fai da te. Cioè? Spiega. Su internet si trovano kit per aggiungere ai netbook già esistenti la possibilità di avere un touchscreen. In realtà sono dei pannelli sensibili, costano intorno ai 50 euro, poi dipende chiaramente dal tipo dalla dimensione del display del netbook. Sì. È un pannello, una lastra sensibile al tocco, trasparente, che io metto sopra lo schermo. Trasparente, esatto, si integra perfettamente all'interno del design. Lo svantaggio è che bisogna smontare praticamente tutto il netbook e avere un po' di perizia nel montarlo. Ti lascio a te e ai tuoi amici queste prove. Bene, Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buona giornata. ...2024. Vi ricordo che la prossima settimana ci sarà a Milano SMAU, da mercoledì 21 ottobre a venerdì 23, un appuntamento che seguiremo con un approfondimento speciale ogni sera dopo il GR dalle ore 21, quindi da martedì a venerdì, dalla sera prima dell'inizio della manifestazione fino all'ultimo giorno. Quindi appuntamento speciale la prossima settimana alla sera dopo GR 24 delle 21. Dal prossimo anno Lufthansa tornerà ad offrire a bordo dei propri aerei un collegamento ad internet. Nel corso di questa puntata abbiamo detto più volte che oramai internet è diventata una necessità, tant'è che abbiamo iniziato la puntata dicendo che in Finlandia, così come già avviene in Svizzera, è riconosciuto come un diritto. Tutti i cittadini finlandesi o svizzeri che vogliono avere il collegamento lo possono ottenere, o dalla Finlandia, in Finlandia lo potranno ottenere dal prossimo anno, in Svizzera accade già da un anno, dall'operatore principale. C'è quindi questa esigenza, e oramai l'esigenza è sentita anche a bordo degli aerei, sui mezzi di trasporto pubblici terrestri, quindi in modo particolare i treni o gli autobus. In modo particolare Lufthansa dal prossimo anno offrirà questo servizio che aveva già lanciato un po' di tempo fa assieme a Boeing, che offriva un servizio che tra l'altro abbiamo provato, funzionava molto bene, che si chiamava Connection by Boeing, ma il business model di quel sistema non funzionò, quindi Boeing decise di chiudere. Dal prossimo anno il sistema verrà offerto assieme a Panasonic Avionics, quindi poi sicuramente vedremo poi come andranno le cose dal prossimo anno. Di fatto questa è una delle grandi compagnie internazionali a tornare a offrire un servizio di questo genere. Ci sono altre compagnie in giro per il mondo che hanno sistemi che permettono di telefonare, ma un conto è fare una telefonata, un conto è navigare con fluidità in internet. Questa è la situazione per quanto riguarda gli aerei. Qual è la situazione invece per mezzi di trasporto molto più facili da collegare alla rete, come appunto treni o autobus, ma in modo particolare treni? Ne abbiamo parlato con Monica Paolini, che a Seattle ha una società di consulenza proprio in questo settore che si chiama Senza Fili Consulting. Ci sono diverse reti che sono specificatamente sviluppate per i treni e gli autobus in modo principale, e la ragione è che chiaramente quando i passeggeri in treno possono connettersi usando la loro 3G card o il loro telefono. Però quello che succede è che molto spesso il network c'è molto traffico, quindi è difficile avere un handoff, e quindi spesso la connessione cade o non è molto, la capacità non è molto alta, quindi non c'è molta bandwidth. La situazione sta in un certo senso migliorando, perché l'infrastruttura cellulare migliora in termini di capacità, però il traffico dal punto di vista degli utenti sta crescendo molto rapidamente, quindi gli operatori mobili si trovano ad avere delle reti con molto traffico, più traffico di quello che possono gestire, e quindi c'è la necessità e c'è la domanda per avere delle reti che possono trasportare il traffico dai servizi pubblici in modo ottimizzato. Mi sembra di capire che un po' in tutto il mondo, pensando ad un autobus o pensando ad una carrozza di un treno, la strada perseguita sia quella di creare una rete Wi-Fi locale e poi dalla carrozza o dall'autobus ci si collega alla rete internet con varie tecnologie. Quindi io tipicamente su un autobus o su un treno mi connetto con il mio computer portatile o con il mio smartphone, il mio telefonino alla rete locale in Wi-Fi, mentre mi muovo a bassa o alta velocità, dipende, e poi il treno o l'autobus a sua volta si collega ad internet. Ecco, che tecnologie vengono utilizzate per collegarsi ad internet? Noi un anno e mezzo, due anni fa, abbiamo raccontato agli ascoltatori un'esperienza che abbiamo fatto su un TGV francese, un treno ad alta velocità, che in quel caso si connetteva via satellite. Qual è il panorama in generale delle tecnologie e delle soluzioni usate nel mondo? Dunque, come dici te, l'aspetto comune Wi-Fi è l'interfaccia per i passeggeri. Quando il traffico, diciamo, lascia il treno per andare sull'infrastruttura su internet, diverse tecnologie sono utilizzabili e molto spesso più di una tecnologia viene utilizzata nella stessa rete. Una delle soluzioni che viene utilizzata più frequentemente è la rete cellulare. La domanda che mi viene fatta è: ma se usiamo il sistema la rete cellulare, qual è la differenza tra usare il telefono o il computer e collegarsi direttamente anziché utilizzare il treno per collegarsi praticamente alla stessa rete? Certo, uno potrebbe dire, beh, allora tanto vale che io mi colleghi e connetta direttamente alla rete di telefonia cellulare, farei prima. Esatto. La differenza però è fondamentale, perché prima di tutto l'antenna che c'è sul treno è in una posizione migliore, quindi in termini di risorse della rete è molto più efficiente. E molto spesso quello che succede è che il treno ha un modem, però ha molti modem, per cui utilizza, adesso spesso utilizzano anche quattro data cards, per cui utilizzano diverse reti allo stesso tempo, quindi questa è una soluzione. Un'altra soluzione è di avere delle base stations lungo la ferrovia, che praticamente creano un network completamente indipendente per la ferrovia. È molto più difficile avere questo tipo di network per gli autobus, perché gli autobus vanno più o meno in giro dappertutto, però per i treni questa soluzione è stata adottata in Inghilterra, in Svezia. Molti potrebbero aver provato il network che va da Heathrow a Londra. E in questo caso ci sono delle base stations lungo la ferrovia e in alcuni casi dove non è difficile avere copertura viene utilizzata la rete cellulare. Una terza possibilità è il satellite che tu hai menzionato, che permette di collegare il treno con il satellite e questo ha il vantaggio che praticamente funziona più o meno dappertutto, anche se in alcune aree urbane potrebbero esserci delle difficoltà, però in questo caso si può utilizzare satellite e cellulare e quindi avere entrambi. In Italia non esistono soluzioni di questo tipo, forse le vedremo tra qualche mese o fra qualche anno. Nel mondo stiamo parlando di pochi operatori o già di un numero consistente? Inizia ad esserci un buon numero di operatori, forse direi che l'Inghilterra è il paese che è un po' all'avanguardia in questo senso, perché c'è il network che ho menzionato prima, da Heathrow a Londra, poi Virgin UK ha un network appena lanciato, National Express anche. Quello che è interessante è che tutti questi operatori che sono stati i primi a lanciare il servizio inizialmente insistevano per far pagare ai passeggeri l'internet access, E adesso c'è un, come dire, un cambiamento, si sono resi conto che se fanno pagare i passeggeri pochi si connettono e quindi c'è la tendenza a offrire il servizio in modo gratuito. E chiaramente questo crea dei costi per l'operatore, però questi costi possono essere recuperati dal fatto che vendono poi più biglietti, perché se c'è wifi più gente prende il treno e quindi le revenues salgono. Questo è un altro aspetto che per esempio negli Stati Uniti sta diventando molto importante, perché come sai negli Stati Uniti poca gente prende il treno, i mezzi pubblici, però c'è la necessità di convincere le persone a prendere mezzi pubblici per ridurre il traffico, e questo viene visto come una strategia per convincere le persone a spostarsi a prendere i mezzi pubblici. In Europa c'è meno bisogno di questa strategia perché molti già prendono i mezzi pubblici, però è una cosa da tenere in considerazione l'impatto che poi avere wifi o internet access sui mezzi pubblici può avere in termini di ridurre traffico e problemi ambientali collegati al traffico. Abbiamo lanciato spunti di riflessione per le aziende che gestiscono il trasporto pubblico anche in Italia. Per la verità Trenitalia qualche anno fa aveva fatto una sperimentazione, poi non se n'è fatto più nulla, ma la tecnologia per fornire internet a bordo dei treni è stata sviluppata anche da aziende italiane. Vedremo tra un paio di anni, arriverà un operatore che farà concorrenza a Trenitalia, vedremo poi se arriverà internet anche a bordo dei treni. È tutto per questa puntata di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo tra 7 giorni, sempre nel pomeriggio del sabato di Radio 24. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.